fresco nic, casa balla tutto biz, trovettiamo un bizzo in biz, cada fanno due cariz, strette mano vase e fritz, provo gusto e te già biz, con ma tanta pirenizza, te ne scinna schizza schizza, fino a quando non scapizza che stia un fresco nic, oh spassati e capillo, mo te coglie mo te pe. Quell'ai che stia rumbre scugniz, casa balla tutto piz, prove dama un biz un biz, cada fanno due cariz, provo gusto e ti c'ha biz, chiude sfrina e chiude piz, con ma tanta piranizza, te ne scinna schizza schizza, fino a quando non scapizza che stia rumbre scugniz. Campagna, lo giardino tutto fresco, Madonna, che stia rumbre scugniz, casa balla tutto piz, trove dama un biz un biz, cada fanno due cariz, trova costette già viz, chiude sfrina e chiude a piz, con ma tanta piranizza, te ne scinna schizza schizza, fino a quando non scapizza che stia rumbre scugniz. Vai, voglio, vai. Udan bai takku beno kata kunu takula ku kata kulu mulai wani eh mola mi kailan wai udan bai takku beno kata kunu takula ku kata kulu mulai wani bu bagada ku bagada ku fa nala dak bi dak ngaba ku fa we sama gani ka yang ini udan sang ini khai bang ini eh jam khaji moye eh ama war wai eh udan bai takku beno ku kata kunu takula ku kata kulu mulai wani bu bagada ku bagada ku fa nala dak bi dak ngaba ku fa chauli chauli chauli wale lai lai lai Esatto.